cose che tu non sai. Battisti non c'è su Spotify. Non essere curiosa, ma dai, se non c'è curiosità, che cosa fai? Essere felice è una fatica. Alle persone ancora non so cosa è successo, mi sono persa tra le lenzuola, sono andata a dormire e mi sono col fucile sotto il letto. Non so più dove mettere i sogni. Dentro il mio cassetto Inception. Niente indeterminato, tutto a progetto. Come un escort, Lino Banfi, commissario UNESCO. Amori virtuali chiusi nel desktop. Mi sono svegliato in un altro laptop. Me ne sto seduto coi popcorn e guardo tutti gli altri in cerca di scoop. Cantanti sotto ghiaccio pop, estinti da Mahmood, il contrario dei Mahmood. Arazzulla fa più soldi di Suburra. La politica non parla mai di nulla. Sto in relax anche se questa urla. Mi sono svegliata in un altro letto. Siamo persi come due calzini. Mi sono svegliata.